ben mimetizzati tra i passeggeri, sugli aerei vegliano gli sceriffi dell'aria. Giorni fa a Miami un uomo ha pagato con la vita un litigio con la moglie ed un tentativo di fuga dall'aereo su cui si apprestava a viaggiare. Aveva con sé una borsa, si è messo a gridare che dentro c'aveva una bomba, è corso fuori, la moglie ha gridato che era malato e due passeggeri finti e veri sceriffi lo hanno inseguito e l'hanno massacrato di pallottole, di bombe ovviamente nemmeno l'ombra. Tra i tanti modi di dire, il poveretto ne ha scelto uno sbagliato. Stati depressivi e sistemi di sicurezza non sono compatibili. Nel mondo dei voli in aereo non c'è posto per chi esce alterato da un litigio con la moglie. Invisibili fra i passeggeri comuni, sull'Eurostar, secondo quanto affermato da un volantino delle Ferrovie dello Stato, c'è l'esperto dell'antica tecnica giapponese della MA. Non dovrebbe risultare di grande efficacia contro eventuali veri terroristi armati fino ai denti, ma in compenso potrebbe servire affinché costoro possano eventualmente affrontare i loro compiti con maggior rilassatezza. L'antica tecnica della MA, recita il volantino, era praticata da non vedenti che, in virtù della maggior sensibilità del loro tatto, agendo sulla mappa dei meridiani così come disegnata dai teorici dell'agopuntura, riattivavano la circolazione dell'energia e riuscivano a sciogliere i punti di tensione eccessiva formatisi nel collo, nelle spalle e nella schiena. Ora, L'Eurostar è quel treno super veloce e super costoso che sull'orario ufficiale delle Ferrovie dello Stato arriva sempre con un super anticipo rispetto alla realtà del viaggio che compie sui binari. Lo prendo tutte le settimane e lo so. O perché una porta non si chiude, o perché le porte non si aprono, o perché si ferma e non ci sono più santi che lo smuovano, o perché semplicemente non c'è. Mancanza di materiale è la metafora ferroviaria per spiegare che manca il treno. Per una di queste ragioni l'Eurostar è in ritardo. Ora so anche che nel salottino di prima classe della terza carrozza, se riesco a individuarlo, per 15 euro per 15 minuti c'è un tale che con pochi tocchi speciali delle sue mani saprà trasformare la mia furia di topo nell'ennesima trappola in beata acquiescenza.